Sulle tue curve la mia mano ondeggerà, anche se il tuo corpo di curve non ne ha. Sei sempre più spigoloso, poi sorridi se mi mostro geloso. Amami uomo, con le mani da uomo, e toccami fiero, con un soffio leggero. Bello di mamma, tosto macio per papà, l'uomo senza curve un donnone sposerà. No, c'è anche amore senza rima, voglio urlare più forte di prima. Apparecchiami, poi sorprendimi con un mazzo di fiori.